storia e la memoria di Dino Pesole. La crisi globale con la quale tuttora ci troviamo a fare i conti, lo abbiamo detto e scritto da più parti, è la più grave crisi finanziaria ed economica dal 1929 a oggi. E non mancano in effetti elementi di similitudine, perché anche nel 29 la crisi fu prima di tutto finanziaria, per poi espandersi a macchia d'olio con effetti devastanti sull'intera economia globale. La crisi seguita al crollo di Wall Street nel 1929 provocò una recessione mondiale di proporzioni mai registrate prima, con 13 milioni di disoccupati, la chiusura di 5.000 banche, il collasso del sistema industriale e finanziario. Il più grave disastro finanziario della storia si consumò tra il 24 e il 29 ottobre 1929. I primi a vendere furono alcuni operatori che operavano con i margin nel tentativo di colmare l'enorme divario che si stava creando tra il valore delle azioni acquistate allo scoperto nei giorni precedenti e la quotazione sempre più bassa del titolo che registrava la telescrivente. Il 24 ottobre, il giovedì nero, già al mattino una gran folla si era radunata davanti alla borsa di New York. A metà mattinata, il caos. Il 28 ottobre, alla riapertura della borsa, volarono via d'un colpo 9,2 milioni di azioni. Il giorno dopo, il martedì nero, sul mercato, sommando le azioni del venerdì e sabato successivo, si toccò l'impressionante cifra di 48,6 milioni. La crisi dilagò rapidamente come un'epidemia. A novembre del 1930 fallirono 256 banche. Il mese successivo fu la volta di altre 352. Nella primavera successiva, una nuova ondata di fallimenti seguì al crollo delle altre borse americane, da Chicago a San Francisco. Alla chiusura delle banche seguì la simultanea contrazione della produzione. Migliaia di fabbriche e imprese fallirono, licenziando operai e impiegati. La crisi investì l'intero sistema produttivo americano e dagli Stati Uniti si trasferì al resto del mondo. Un aspetto della grande crisi del 29 non molto indagato, che presenta molti elementi di interesse, è la relazione che intercorre tra il New Deal, vale a dire il nuovo corso, cui il presidente Roosevelt affidò nel 1933 il compito di portare il paese fuori dalle secche della recessione, e il jazz. Jazz e New Deal è l'argomento di un convegno che si terrà a Roma alla Luiss il prossimo 11 novembre. Ne parliamo con il professor Giuseppe Di Taranto, docente di storia economica nella Facoltà di Economia della Luiss, dove insegna anche storia del pensiero economico. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, parliamo insieme intanto delle due grandi crisi. La grande crisi che stiamo ancora tuttora vivendo è certamente diversa da quella del 29, eppure qualche elemento di similitudine lo possiamo trovare. Abbiamo provato a sintetizzarlo, non so se è corretto. Assolutamente, la sua analisi è stata molto corretta. A mio avviso si tratta di due crisi che rappresentano dei fallimenti di un mercato senza regole, sia per quanto diceva lei relativamente al 1929, sia, come tutti sappiamo, soprattutto per la crisi del 2008, che, anche se diversa, ha trovato proprio nella libera circolazione dei capitali un eccesso di liquidità, a partire sia dai capitali a bassissimo tasso di interesse degli anni 90 che il Giappone metteva a disposizione del mondo, sia ovviamente dall'esportazione di capitali dei nuovi paesi globalizzati come Cina, India, Russia e così via. Quindi certamente le affinità ci sono, ma mi permetta di ricordare che ci sono soprattutto per gli strumenti con i quali poi si è usciti dalla crisi, soprattutto riguardando gli Stati Uniti, e mi spiego meglio. Lei giustamente citava il New Deal, e noi sappiamo molto bene che furono applicate misure keynesiane di investimenti, sì, soprattutto in infrastrutture. Guardi, uno studio che ho fatto qualche anno fa ha proprio mostrato che il piano Paulson del 2009, di circa 800 miliardi di dollari, sì, ha usufruito degli stessi precisi investimenti, edilizia, acquedotti, aeroporti e così via. In più, ovviamente, c'era la banda larga e l'alta velocità che nel 29 non c'erano. Questo forse a conferma della utilità degli investimenti, che sono senza storia, perché è soltanto con quelli che aumenta il reddito e l'occupazione. Certo, in più professore bisogna ricordare che poi gli Stati Uniti stanno uscendo dalla grande crisi, questa attuale, grazie a una potente iniezione di liquidità che ha invaso i mercati. Assolutamente, che purtroppo noi siamo incapaci di fare, perché le regole, ahimè, dell'Unione Europea non ci permettono la libertà d'azione che ha la Fed, per cui mentre la BCE deve sempre correre a provvedimenti borderline, e io dico sempre, meno male che c'è Draghi, non so un domani quando non ci sarà Draghi, yeah, se questi provvedimenti saranno, si potranno ancora prendere, mentre la BCE, la Fed ha avuto sempre le mani libere, e mi permetta di aggiungere che è un qualcosa che risulta quanto mai strano, perché su 200 paesi al mondo bisognerebbe capire come mai soltanto quelli dell'Unione Monetaria Europea hanno ancora queste regole. Sì, infatti gli Stati Uniti non hanno il patto di stabilità, tanto per dire. Professore, parliamo di questo convegno dell'11 novembre. Allora, Jets e New Deal. Il New Deal, lo abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori, è il nuovo corso al quale Roosevelt affidò il compito di portare fuori il paese dalle secche di una gravissima crisi. Fu un corso in cui la fiducia ebbe un ruolo fondamentale. Allora, il jazz e lo swing, quindi due caratteri musicali molto importanti, che ruolo ebbero? Beh, un ruolo importante, anche perché a mio avviso la crisi non è un limite per la musica jazz, ma può essere tutto considerata anche una spinta, no? Per nuovi esperimenti, per innesti musicali differenti. E penso che la crisi, e questo riguarda sia quella del 29 sia, ahimè, quella di oggi, sia, come dire, una pausa di riflessione forse della creatività, che può servire appunto a esplorare nuovi sentieri armonici. Questo successe nel 29, da quando si passò in un viaggio ipotetico, in un viaggio immaginario, dai primi esperimenti jazz fatti a New Orleans, poi si passò a Chicago, dove c'era una musica in qualche maniera più ragionata, più razionale, con i primi grandi nomi, come per esempio quello di Louis Armstrong. No, Duke Ellington, certo. Duke Ellington, bene, sì, potremmo citare diversi, veramente, come dire, passati alla storia. Sì. A dopo la crisi, in cui effettivamente c'è un cambiamento nella musica jazz, anzitutto perché, se vuole, c'è un deprezzamento della stessa musica jazz, che si trasforma molto spesso in swing, quindi una musica in qualche maniera molto più commerciale, sì, nonostante poi negli anni 30 noi abbiamo anche la nascita dei musical, quindi c'è una commercializzazione, direi, generalizzata della, come dire, musica di carattere individuale, certamente più complessa, che è quella jazz. E questo, guardi, mi pare, mi faccia citare soltanto un esempio, che sia accaduto anche oggi, sì, dopo questa, ahimè, pessima crisi, bruttissima crisi che stiamo vivendo, per esempio con Brad Mehldau. Brad Mehldau si era avvicinato prima della crisi ad una musica un po' particolare, addirittura in qualche maniera facendo irrompere le musiche dei Beatles nella musica jazz, poi subito dopo è passato a qualcosa di più riflessivo, di più ragionato, mm-hmm, è passato a una specie di mix con la musica sinfonica, quindi credo che effettivamente la crisi possa far in qualche maniera avere delle pause di riflessione. Certo, e poi la musica accompagna nei suoi vari generi nel Novecento tutte le tappe storiche che si sono, certo, poi alternate, questo è del tutto evidente, non a caso anche oggi c'è una forte riscoperta dello swing, quindi, come dire, corsi e ricorsi storico-musicali, potremmo definirli. Certo, ma sa, anche questo riguarda la musica sinfonica, quando per esempio a fine Ottocento si passò dall'impressionismo all'espressionismo, arrivò Stravinsky con la musica dodecafonica, quindi siamo perfettamente d'accordo, come dire, economia e musica molto spesso vanno d'accordo. Certo, e quindi il New Deal, questo è il tema del convegno, ma anche oggi ci sarebbe bisogno di un New Deal, professore? Io penso proprio di sì, guardi, però oggi a mio avviso, e qui il discorso si allarga e si ricollega super giù a quanto dicevamo prima, c'è bisogno per noi europei di nuove regole, perché credo che così sarà molto difficile uscire da questa crisi. Lei ha visto le ultime previsioni, no? Proprio di ieri, che riguardano non solo l'Italia, ma riguardano tutta l'Unione Europea, Noi avremo meno di un punto di crescita del PIL. Allora bisognerebbe chiedersi come mai negli Stati Uniti, dove è scoppiata la crisi del subprime, noi registreremo un incremento del PIL di circa il 3%, mentre l'Unione Europea resta, ahimè, legata a valori molto bassi, senza parlare poi della disoccupazione. Quindi una riflessione soprattutto sulle regole, sulle riforme, sa, si parla sempre di riforme, a noi dicono di fare le riforme ed è giusto, però forse qualcuno dovrebbe spiegarci perché non si fanno riforme a livello delle istituzioni europee come la Banca Centrale, lo accennavamo prima, no? Che non può essere prestatore di ultima istanza, mentre tutte le altre banche del mondo, compresa la Fed, lo sono. Quindi diciamo che un riorientamento delle politiche economiche credo che oggi sia indispensabile. Grazie professor Di Taranto. Anche da questo punto di vista la storia e la storia del New Deal e della grande crisi del 29 ci insegna molte cose. Grazie ancora e buona grazie serata. Grazie a lei.